Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano, il consolidamento dell'euro è una priorità per l'Europa. Berlusconi a colloquio al Quirinale, oggi il voto della manovra, intanto nuovo record del debito italiano. La giunta per le autorizzazioni salva Milanese dall'arresto, domani il parere dell'aula, Berlusconi pronto ad andare dai PM napoletani. Addio a Walter Bonatti, leggenda dell'alpinismo italiano, aveva 81 anni. Calcio, inizia bene la Champions italiana col Milan che ferma i campioni del Barcellona, stasera in campo Inter e Napoli. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura la giornata economica con l'attesa approvazione della manovra economica alla Camera. In mattinata anche un colloquio tra Napolitano e Berlusconi, il Presidente del Consiglio che ieri ha incontrato i vertici delle istituzioni europee. In corso le dichiarazioni di voto a Montecitorio. Allora colleghiamoci con Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Terminate da pochi istanti le dichiarazioni di voto sulla manovra, si sta procedendo alla cosiddetta prima chiama nominale dei singoli deputati che si esprimeranno sulla fiducia chiesta dal governo sulle modifiche al provvedimento apportate a Palazzo Madama. In serata poi ci sarà il via libera all'intero testo. Quanto ai contenuti, ricordiamo l'impatto del decreto da oltre 50 miliardi di euro sui conti pubblici con il pareggio di bilancio anticipato al 2013, contributo di solidarietà alle pensioni per le donne nel privato, aumento dell'IVA ed ancora tagli agli enti locali, spending review, redditi online, lotta all'evasione fiscale. Questa manovra è il meglio che si poteva fare in questo momento, ha rivendicato la maggioranza. Sentiamo allora Riguzzoni della Lega Nord. Ci piacciono anche i tagli ai ministeri e il contributo di solidarietà che è a carico di noi parlamentari. Abbiamo fatto il possibile anche per ridurre il taglio agli enti locali, ai comuni sui quali non era giusto ricadesse tutto il peso della manovra. Quindi avanti con la revisione del patto di stabilità interno, con la riforma del fisco, la riforma tributaria, la riforma costituzionale, la riduzione del numero dei parlamentari. Diverso il giudizio dell'opposizione, si colpiscono i soliti, i deboli, dice Di Pietro, Berlusconi deve fare un passo indietro, ribadisce Veltroni dal Partito Democratico. Ascoltiamo Veltroni. Abbiamo bisogno e subito di un nuovo governo, di una soluzione che restituisca al Paese serenità e prestigio internazionale, senza vincitori e vinti, ma con una sola stella polare, il bene degli italiani. L'improvvisazione con la quale si è affrontata questa crisi, prima negata e poi subita, non si può protrarre in questi tempi così eccezionali. Lo dicevate da studio, è in corso in questo momento al Quirinale il faccia a faccia Berlusconi-Napolitano, un incontro di routine quando si approva la manovra. In mattinata, in un comunicato, il Capo dello Stato aveva ricordato il consolidamento dell'euro è una priorità essenziale per l'Europa, ma costituisce anche un interesse vitale per l'economia mondiale. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, così dunque a Montecitorio verso l'approvazione definitiva della manovra. Domani però manifestazioni in tutta Italia da parte dell'ANCI e dei sindaci italiani che protestano contro i tagli previsti proprio dalla manovra. Molti i primi cittadini anche della maggioranza in disaccordo con le decisioni del governo. Nella Lega il Consiglio federale del Carroccio ha vietato ai sindaci leghisti di partecipare alle manifestazioni dell'ANCI. Questa la reazione del sindaco di Varese e presidente dell'ANCI Lombardia, Tilio Fontana, della Lega, al microfono di Anna Marino. Innanzitutto vorrei vedere con precisione quello che è il contenuto della decisione, perché io non l'ho visto. È chiaro che sono dispiaciuto perché non è stata percepita nel modo corretto quella che non era una contestazione, ma era un semplice tentativo di far evidenziare come questa manovra potesse assumere degli caratteri estremamente preoccupanti per la nostra gente, per la nostra cittadinanza. Per quanto riguarda invece la manifestazione di Venezia, c'è questo richiamo a un allineamento, voi vi sentite d'accordo? Ma noi siamo sempre allineati alla Lega, non ci sono dubbi, io sono sempre stato assolutamente allineato. Io sfido chiunque a leggere una mia dichiarazione che sia contraria in qualche modo a quello che è sempre stato il discorso della Lega, quelli che sono i principi fondanti del nostro movimento. E la manifestazione antimanovra? Valuteremo da farsi. La decisione quando potrà prenderla? Molto prima di Venezia. E nuovo record intanto per il debito pubblico italiano, che a luglio è salito a 1.911 miliardi di euro, oltre 10 in più rispetto a giugno, secondo i dati della Banca d'Italia. Questo nonostante le entrate tributarie dei primi 7 mesi del 2011 siano state in aumento a quota 221 miliardi di euro, un aumento dell'1,3%, dati stavolta del Ministero dell'Economia. Forte aumento è stato registrato dal gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, male invece le entrate derivanti da IRES e IRAP. E adesso invece facciamo il punto su una notizia che ha animato o turbato l'apertura delle borse questa mattina: il downgrading da parte di Moody's di due importanti banche francesi, Crédit Agricole e Société Générale. Adesso qual è la situazione? Deborah Rochin. Sì, buongiorno. Allora, la notizia, che per la verità era attesa perché era stata in qualche maniera preannunciata nel fine settimana, ha fatto partire malissimo le borse del vecchio continente, tutte in ribasso, poi hanno recuperato, poi hanno ripreso a scendere di nuovo, adesso sono in rialzo, in forte rialzo. Gli indici hanno allungato il passo dopo la notizia che il presidente francese Sarkozy ha ribadito che la Francia è determinata a fare tutto il possibile per salvare la Grecia, e altre novità potrebbero emergere nel pomeriggio dopo la teleconferenza fra i capi di Stato di Germania, Francia e Grecia, per l'appunto. Allora, qual è la situazione? Parigi sale del 2% e stanno andando bene tutte le banche. Francoforte più 2,53, Londra più 1,44, Milano in rialzo del 2,22%. Naturalmente sul mercato c'è aria positiva anche perché i paesi del BRIC hanno fatto sapere che discuteranno la settimana prossima a Washington della possibilità di offrire aiuti all'Unione Europea alle prese con la crisi del debito. Voglio però raccontarvi di un caso italiano: Ansaldo guadagna il 27% a Piazza Affari, una prestazione così non si vedeva credo da qualche decennio, e Finmeccanica più 15%, perché il mercato crede all'ipotesi che Finmeccanica possa vendere Ansaldo e Ansaldo Breda agli americani di General elettriche. Questo oggi fa davvero volare non solo questi titoli ma l'intero listino. Stanno andando bene anche i titoli del settore bancario, sta schizzando anche l'euro sul dollaro a 1,37,31, e per quello che riguarda infine lo spread siamo su livelli più tranquilli di ieri, intorno ai 387 punti base. Alessio. Grazie dunque Deborah Rosciani, questo è il punto sui mercati. Adesso invece la nostra rubrica dedicata all'economia sommersa. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. La collana d'oro viene comprata nel negozio Compro Oro e magicamente si trasforma in un rottame, evitando così il pagamento dell'IVA. È questo il trucco che permette ad alcuni operatori del settore di evadere l'imposta. Sui gioielli dovrebbero pagare l'IVA al 20%, ora portata al 21%. Dichiarandola come rottame da vendere alle fonderie, non pagano nulla. Così procedevano due importanti operatori con sede a Caserta, pizzicati dal fisco: Mario Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Oltre, diciamo, all'evasione, qui ci possono essere anche delle frodi e delle irregolarità anche dal punto di vista del materiale e dal punto di vista di sanzioni amministrative che possono essere anche comminate dalla Banca d'Italia in relazione appunto alla movimentazione di oro. Il boom del compro oro è recentissimo, più 25% dei ricavi nell'ultimo anno, oltre 5.000 negozi in Italia. Complice la crisi economica e le quotazioni record del metallo, il giro d'affari è diventato notevole, tanto che ogni negozio, secondo le associazioni dei consumatori, fa ricavi per 350.000 euro l'anno. Ma è un settore che in buona parte è opaco. Oltre all'elusione dell'IVA, esistono anche altre truffe intorno a questi negozi, tanto che è intervenuta anche la Banca d'Italia. La legge infatti impone che le aziende che acquistano oro dichiarino l'operazione per evitare che si possano verificare casi di riciclaggio e ricettazione, ma non sempre viene fatto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lasciamo l'economia, parliamo di giustizia, perché sarebbe sul punto di finire il braccio di ferro tra Berlusconi e i PM napoletani, che vogliono sentirlo come testimone, almeno a quanto risulta da anticipazioni di stampa, ma ci racconta tutto Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Il procuratore di Napoli Gian Domenico Lepore avrebbe avuto contatti con i legali del Premier per concordare tempi e forme di un eventuale interrogatorio di Silvio Berlusconi. L'indiscrezione viene proprio dalla procura di Napoli, ma non si conferma ancora la disponibilità del Presidente del Consiglio. Ieri i magistrati hanno minacciato l'accompagnamento coatto del Premier, un'ipotesi che ha destato le critiche del PDL, mentre il Ministro della Giustizia, Francesco Nitto Palma, chiedeva chiarimenti alla procura. Secondo la tesi dei PM, Berlusconi sarebbe stato ricattato dai coniugi oggi Giampaolo Nicola Tarantini, attualmente agli arresti, e da Walter Lavitola, attualmente latitante, sull'affare delle escort. I tre avrebbero beneficiato di 1 milione di euro da parte del Premier e ieri è stato ascoltato dalla Procura l'avvocato di Berlusconi, il deputato del PDL Nicolò Ghedini, il quale ha negato di sapere qualcosa dei soldi. In tutto ciò la Lega resta distante. Umberto Bossi non vuole intervenire sulla scelta di Berlusconi di presentarsi o meno in Procura. Non ho nessun consiglio da dargli, ha chiosato il leader della Lega. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Altra vicenda, quella che riguarda l'ex braccio destro del ministro Tremonti, Marco Milanese. Oggi dalla giunta per le autorizzazioni è arrivato un no alla richiesta d'arresto. Sentiamo com'è andato il voto. Per il momento Marco Milanese può tirare un sospiro di sollievo. L'ex braccio destro di Tremonti, per il quale la Procura di Napoli aveva chiesto l'arresto per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e associazione a delinquere, si salva con un voto di scarto. 11 contro 10. Decisivo il no alla custodia cautelare dei due commissari leghisti Luca Paolini e Fulvio Follegò, gli stessi che il 16 luglio con la loro astensione furono invece determinanti per l'ok all'arresto di un altro deputato del PDL, Alfonso Papa. Ma la partita finale si giocherà nell'aula della Camera il 22 settembre, dove l'esito è tutt'altro che scontato. Ago della bilancia, ancora una volta sarà la Lega che potrebbe lasciare libertà di coscienza, anche se Bossi, ancora questa mattina, è tornato ad esprimersi contro la detenzione, considerandola una forzatura. Il capogruppo del Carroccio alla Camera, Reguzzoni, fa sapere che una decisione verrà presa martedì. Anche l'opposizione, che in commissione ha votato compatta per l'arresto, in aula potrebbe dividersi con l'UDC, che lascerà libertà di voto ai suoi deputati. Opposizione unita comunque nel chiedere il voto palese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Lutto nel mondo dell'alpinismo ma anche del giornalismo. Walter Bonatti, leggenda dell'alpinismo italiano internazionale, è morto ieri sera a Roma per una malattia. Aveva 81 anni. La salma sarà trasportata a Lecco, dove sabato e domenica verrà allestita la camera ardente. Risentiamolo in una intervista che aveva rilasciato al nostro Dario Ceccarelli circa 2 anni fa. Per me prima la montagna e poi le mie avventure in giro per il mondo è stato soprattutto per vivermi dentro, per conoscermi, per sapere chi ero e cosa facevo. E alle volte l'impresa alpinistica è stato un mezzo per, non un fine. Una volta il mondo sembrava infinito, ora che è stato scoperto tutto, anche la sua fragilità, ancora gusto esplorarlo. Intendiamoci, cosa vuol dire oggi l'esplorazione? La vera esplorazione non è più né geografica né è scientifica, certo, ma è soprattutto il grande sconosciuto che ci resta ancora da esplorare, è il proprio io. Dobbiamo guardarci dentro e capire chi siamo. Non abbiamo ancora capito, capiamo tutto, andiamo su altri pianeti e non conosciamo ancora l'uomo. Ecco, è l'uomo che va esplorato adesso. 13:16 minuti, GR24, ben ritrovati nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato di economia, oggi il voto finale della manovra, intanto il nuovo record per il debito pubblico italiano. In tarda mattinata un incontro tra Berlusconi e Napolitano al Quirinale. La giunta per le autorizzazioni a procedere ha salvato Marco Milanese dalla domanda di arresto dei giudici. Domani ci sarà il parere dell'aula. Berlusconi sarebbe pronto ad andare a parlare con i PM napoletani che lo vogliono sentire come testimone. E poi l'addio a Walter Bonatti, leggenda dell'alpinismo italiano, morto ieri sera a 81 anni. Adesso le altre notizie. E prima di tutto andiamo al Salone dell'Auto di Francoforte, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Con te vogliamo parlare dei modelli che hai visto, delle novità per quanto riguarda naturalmente il settore dell'auto, le curiosità che puoi avere visto al Salone di Francoforte. Poi anche un breve commento, se è rimbalzata anche lì la notizia della chiusura, dell'annunciata chiusura da parte della Fiat dello stabilimento Irisbus, lo stabilimento campano che produceva autobus. E poi avremo un'intervista anche sul fronte sindacale. Ma iniziamo, Andrea, dalle novità del Salone di Francoforte. Che cosa hai visto, che cosa ti ha colpito particolarmente? Sì, come ogni anno le novità spaziano dalle auto piccole a quelle più di lusso. Nelle auto piccole in particolare c'è un grande affollamento quest'anno perché abbiamo la nuova Panda che esordirà sul mercato ai primi mesi dell'anno prossimo e due concorrenti importanti come la Volkswagen Up, un modello completamente nuovo, e la prossima versione della Renault Twingo. Sono tutti un segmento in cui la concorrenza, come potete immaginare, è agguerrita e i margini sono sono molto ridotti e la Panda ha tradizionalmente un ruolo dominante. Spostandoci sull'altro lato della gamma, cioè i modelli più costosi, che risentono anche relativamente meno della crisi, possiamo ricordare che la Ferrari presenta la versione Spider della 458 Italia, la cugina Maserati ha presentato un interessante concept di un SUV, Kubang, che dovrebbe entrare in produzione tra un paio d'anni e fare in sostanza concorrenza alla Porsche Cayenne, mentre la stranezza più grossa vista finora qui al Salone è una Bugatti, auto sportiva da addirittura oltre un milione di euro, con inserti in porcellana, realizzata per un cliente che è rimasto anonimo e che pare costi rispetto al modello di serie ancora un mezzo milione di euro in più. Si va quindi beato lui che se la può permettere. assolutamente credo non debba guidarla troppo, perché abbiamo qualche dubbio qui tra giornalisti sulla resistenza della porcellana sulle asperità. Senti Andrea, invece per quanto riguarda la notizia della Irisbus, Fiat perde un altro pezzo, ci sono commenti da Francoforte su questo? No, dunque sappiamo che l'avvertenza è aperta da qualche settimana, e c'era un'offerta da parte della DR, l'azienda molisana, che però contemporaneamente ha concorso con successo per rilevare una parte dell'impianto sempre da Fiat di Termini Imerese, non potendo sostenere i due impegni contemporaneamente si è ritirata e Fiat appunto ha varato la chiusura dello stabilimento che produce autobus e le cui difficoltà sono almeno in parte legate a un mercato italiano essenzialmente legato alle commesse pubbliche, quindi in grave crisi per i tagli anche dei fondi agli enti locali. Grazie allora ad Andrea Malan per questo racconto dal Salone dell'Auto di Francoforte, l'inviato del Sole 24 Ore. Ma su questa situazione che riguarda lo stabilimento Irisbus della Fiat, Anna Marino ha intervistato un sindacalista, il segretario generale della UGL Metalmeccanici Giovanni Centrella, perché i lavoratori stanno occupando il sito da ieri sera e vediamo quali intenzioni hanno. Noi chiederemo adesso e da subito un incontro ad Horas alla Presidenza Consiglio dei Ministri, perché riteniamo che Fiat, con tutte le sue buone ragioni, non può decidere da un giorno all'altro o da un'ora a un'altra la chiusura dell'unico stabilimento che produce bus in Italia. Riteniamo anche che ci siano tutte le condizioni per fare almeno un anno di cassa integrazione, non per chiusura di stabilimento, e capire da qua a un anno se ci sono le condizioni economiche nel nostro paese per l'acquisto di bus urbani e poi decidere che fine fare questo stabilimento. Ma chiuderlo tout court, di punto in bianco, non lo riteniamo giusto, ma non lo riteniamo giusto, per questo chiediamo un incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché viene meno il piano presentato da Marchionne alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Che chiudeva due stabilimenti del gruppo, Termini Imerese e la TNG di Imola, questo sarebbe il terzo, quindi quel piano presentato da Marchionne è un piano non più in essere, quindi vorremmo sapere Fiat in Italia cosa fa. Se non otterrete risposta, che cosa farete? Non sarà facile tenere buoni lavoratori che si vedono tolto il posto di lavoro dalla sera alla mattina, sono 700, ma intorno a loro ci girano altri 2000 lavoratori dell'indotto. E ora all'estero, emergenza politica in Belgio dopo l'annuncio delle dimissioni da primo ministro ad interim di Yves Leterme, che entro la fine dell'anno lascerà la politica per diventare segretario aggiunto dell'Ocse. Il re Alberto II ha deciso di ritornare a Bruxelles da Nizza per seguire direttamente gli sviluppi politici. Oggi è il 450esimo giorno del Belgio senza un governo con pieni poteri. Dalle elezioni politiche del 13 giugno del 2010, infatti, Leterme ha guidato un esecutivo in carica solo per gli affari correnti. E torniamo in Italia per una vicenda milanese. 12 piccole moschee anziché un grande luogo di culto per islamici nel capoluogo lombardo. Sarebbe questa la decisione presa dalla giunta Pisapia. Oggi l'incontro tra il vice sindaco di Milano Maria Grazia Guida e le associazioni islamiche per fare proprio il punto sulle moschee, dopo che tra l'altro nei giorni scorsi una frase di Pisapia sulle 12 moschee in città aveva alimentato un piccolo giallo e qualche polemica. Sentiamo il vice sindaco Guida al microfono di Maria Piera Cicci. Sono state fraintese le parole, in realtà noi stiamo operando in un tavolo tecnico con le realtà esistenti. Si va verso quindi un'apertura di tanti luoghi, un riconoscimento di tanti luoghi che già esistono? Diciamo che i luoghi esistono già e abbiamo l'esigenza che questi luoghi escano un po' di più allo scoperto, perché devono comunque essere presenti all'interno di regole condivise e di sistemi anche di sicurezza per le persone che li frequentano, espliciti e condivisi. Quindi stiamo operando semplicemente all'interno di una situazione preesistente che solo affrontata congiuntamente riuscirà ad essere garantita come una libertà di orientamento e di culto. E ci spostiamo a Lecce per una decisione del Tribunale di Sorveglianza della città sul tema delle carceri affollate, che potrebbe avere conseguenze. Va infatti risarcito il detenuto che vive in una cella troppo piccola, così ha stabilito appunto il Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Tutto è partito dalla denuncia di un detenuto straniero. Parla di diritti negati il suo difensore Alessandro Stomeo, al microfono di Barbara D'Amico. I diritti sono molteplici, sicuramente si possono racchiudere nel concetto di dignità della detenzione, dignità dell'essere umano. Ne esiste tutto un corpus di diritti che sono propri del detenuto, tra i quali naturalmente innanzitutto lo spazio vivibile all'interno della cella e soprattutto la possibilità di risocializzarsi, di avere contatti con l'esterno, di poter in qualche modo porre in essere un vero e proprio percorso rieducativo. Chiaro che nel momento in cui tutto ciò non avviene, comunque il detenuto viene lasciato semplicemente 20 ore al giorno in 11 metri quadrati insieme a due altri detenuti, che è quello che accade nel carcere di Lecce. Si trovano in tre in una cella di 11 metri senza avere neanche un minimo di spazio vivibile, di libertà di movimento all'interno della cella, sotto tutti gli standard previsti anche dal Comitato contro la tortura in seno alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cioè, ci sono una serie di violazioni che purtroppo a causa del sovraffollamento e della carenza di strutture penitenziarie gravano poi in fondo sui diritti propri dell'essere umano, che sono anche del detenuto. E siamo al calcio. Ieri sera grandi emozioni al Nou Camp, dove il Milan ha pareggiato 2-2 con il Barcellona. Stasera in campo Inter e Napoli, partenopei che fanno visita al Manchester City, mentre i nerazzurri ospitano i turchi del Trabzon, squadra praticamente impronunciabile per Gasperini, già una sfida decisiva. Si è rimasti male tutti, ma per primo penso all'allenatore, quindi credo che poi sia lui stesso che cercherà di vedere come porre quei rimedi necessari. Prende in mano il timone della barca Massimo Moratti prima che il vascello nerazzurro vada alla deriva. Il KO di Palermo, sommato alle incertezze tattiche di mister Gasperini, impongono già l'inversione di rotta, da concretizzarsi in una manciata di giorni sempre a San Siro. Stasera col Trabzonspor, sabato contro la Roma. Gasperini fa autocritica, ha capito che il gruppo non digerisce la difesa a tre, ma prova anche a scuotere lo spogliatoio. Si è vista una squadra un po', cioè, piuttosto sfilacciata in questo, e deve recuperare un migliore equilibrio. Calma e saggezza predica uno dei senatori, Cambiasso. A partire da stasera, per uscire dalle secche, serviranno soprattutto nervi d'acciaio. Se si perde una partita, è un problema così, che dobbiamo cambiare dal presidente al magazziniere tutti quanti qua, iniziamo ad aspettare un po'. Per me non c'è un problema, abbiamo perso una partita. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso chiudiamo con un appuntamento. Perché torna dopo due anni al Blue Note di Milano il talentuoso e soprattutto giovanissimo batterista siciliano di 17 anni, Gianluca Pellerito, sarà questa sera in concerto con il nuovo progetto Jazz My Way insieme alla sua band, il Gianluca Pellerito Quintet, per proporre una miscela di Latin Jazz, funky e grandi standard. Sentiamolo al microfono di Adriana Fracchia. Dall'ultimo concerto c'è stato veramente un grande miglioramento, ma non solo da parte mia, ma da parte un po' di tutti i musicisti, perché più si sta con i musicisti più migliori il rapporto, quindi è migliorata la sintonia del gruppo. E l'anno successivo al Blue Note sono andato in America, e sono andato nuovamente in America perché c'ero già stato nel 2008, ma ho suonato di nuovo all'Istituto di Cultura Italiana a New York e poi ho fatto un concerto veramente importante e molto prestigioso al Kennedy Center di Washington. Lei ha un rapporto abbastanza intenso con Peter Erskine. Sì, Peter Erskine è in assoluto, non so come definirlo, se non il mio padre della musica, perché lui è sempre stato il mio mito pure da quando ero piccolo. quindi questo è stato pure un altro sogno, poter suonare con lui al Teatro della Verdura il 31 luglio del 2009, una cosa molto importante, la possibilità di aver inciso un disco con lui. Cosa vuoi fare da grande? Voglio diventare un batterista a tutti gli effetti di fama internazionale. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Vi lasciamo a Italia in Controluce, da Alessio Maurizi in studio, Roberto Scaltritti in regia. L'augurio di una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.